Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Progressiva perturbazione psichica, mutismo e deambulazione instabile al quarto mese, perdita di un quarto del campo visivo dopo 6 mesi. Faremo delle analisi e scopriremo cos'è che ti fa star male. C'è una famiglia di malattie molto rare. Lorenzo ha una di queste. È un errore del metabolismo. Il suo decorso è inesorabile, la fine ineluttabile. E lei ne è assolutamente certo? Sì. Si tratta di una vera e propria roulette genetica. Beh, è tutto arbitrario, capite? La colpa non è di nessuno. Deve star lavorando su questo, no? Noi andremo ovunque sia necessario. Sì. 10 anni fa questa malattia non era stata neanche identificata. Stiamo ancora cercando di capire cos'è. La nostra è quella che viene chiamata malattia orfana. È troppo rara per essere notata. Troppo rara per dedicargli dei fondi. Non vi aspetterete sul serio che io autorizzi una terapia solo in base ad un unico risultato promettente. C'è qualcuno da qualche parte che sta dando la caccia a una terapia definitiva? La medicina non è come la fisica, non esiste certezza matematica. E forse, poiché abbiamo di fronte esseri umani che soffrono, questo può sembrarci crudele. Se una persona non si può più muovere, non può più vedere, non può più parlare, come si può fare a sapere che cosa rimane? Lui è il mio bambino, è il mio unico e solo desiderio, è di riuscire a riaverlo come era prima. Domani è l'ottava giornata mondiale di sensibilizzazione per le malattie rare. Malati che affrontano troppo spesso in solitudine malattie di cui si sa poco e che in molti casi non hanno una cura. Malattie per cui la ricerca è la sola speranza. Sono malati che devono lottare per veder riconosciuta la loro malattia e cercano disperatamente strutture e medici adeguati. Ecco, in Italia c'è il Centro Nazionale delle Malattie Rare che fa capo all'Istituto Superiore di Sanità. Si occupa di ricerca scientifica e ha un team di specializzato che sostiene il malato e che risponde al numero verde 800-896949, ripeto 800-896949. Noi abbiamo con noi V, lo chiameremo così perché giustamente non vuole dire il suo nome, è un ragazzo di 27 anni che ha una di queste malattie rare di cui molto si è parlato anche a Cuori e Denari. Ecco, quando hai capito che la tua vita sarebbe stata una vita diversa da quella degli altri? Quando ho cominciato a vedere le prime vere e varie cose, puntarmi sulle gambe all'età di 9-10 anni, e cominciavo a capire che avevo qualcosa di diverso, perché tutti i bambini erano tutti puliti, eleganti, perfetti, io cominciavo a vedere le prime vere e varie cose. Poi all'età di 13-14 anni, quando mi sono fatto male giocando a calcio, ho capito che la malattia andava a toccare molte più cose di quello che io pensavo. Ecco, ma come si chiama esattamente la tua malattia? Sindrome di Klippel-Trenaudet. Ma quando hai capito che era una malattia rara? Ai tempi, quando scoprì che malattia era, mi dissero che era una malattia rara, ma non come lo intendiamo magari oggi, che dall'esenzione, da tante cose. Ora è diverso, ma prima ai tempi era tanto per capire come potessi curare o comunque capire chi ne capiva qualcosa. E chi è che ne capiva qualcosa? Dove sei andato? Mi mandarono a Milano al policlinico, non mi ricordo adesso il nome, quando sì, ero più piccolino, fecero tante visite, ma poi alla fine non andò, cioè, oltre a capire cos'era la malattia, non mi fu detto più di tanto quello che dovevo fare. Cioè, non riuscivano a capire cosa avevi? No, perché c'era una fase di era una fase ancora molto di ricerca questa, su questa malattia, sì, e avevano provato bloccando l'esafena, non mi ricordo bene il termine, qual è il termine medico, ma non dava questi risultati che sperava, o addirittura peggiorava la situazione. Perché che cosa si sperava di ottenere? Di togliere questi capillari, queste vene arteriose che comunque causavano una crescita più veloce della gamba. Cioè una gamba più che cresceva più dell'altra? Sì, ma molto più, si vedeva proprio palesemente, anzi io sono fortunato che sono una sindrome che sulla gamba ha cresciuto poco l'osso, ma altri ragazzi hanno avuto crescite di 5 agli 8 centimetri. Accidenti, sì. Sì, e lì è molto più disastrosa come situazione, naturalmente. Un bambino non può capire ancora cosa c'è. Naturalmente, ma e dopo Milano dove sei andato? In America? Dopo Milano ho provato all'MGH, in America, abbiamo provato in vari posti, ma sempre la cura non esisteva. Cioè era sempre una malattia rara che non si capiva cos'era. Non si capiva come agire, sì, cioè come curarla, come curarla. Sì. Ma tu come hai reagito? Quando hai capito che avevi una malattia così? All'inizio malissimo, perché la gamba comunque non mi causava questi grandissimi problemi, però allo stesso tempo i genitori mi dicevano: ah, ogni tanto non puoi fare questo, non puoi fare quello, non devi fare questo. Ovviamente loro per il mio bene, io ero bambino, certo, non lo capivi. Esatto. Poi tra i 13-14 anni ho cominciato veramente a capire che era una cosa che dovevo conviverci e accettarla, e invece di combatterla quasi, certo. E ho cominciato a pensare come conviverci. Migliorare la mia vita. E che cosa ti ha aiutato a fare la svolta mentalmente? L'incontro con il col Centro Nazionale delle Malattie Rare? Sull'accettazione, no, per essere sincero, ovviamente sono stati la mia famiglia, gli amici. I tuoi genitori, gli amici, sì. Il centro è stato veramente il primo strumento reale per avvicinare una persona che ha una malattia rara alla sanità italiana. Perché io fino a quel momento veramente pensavo, vabbè, il Ministero della Salute, poi alla fine non andava. Non ti serviva a nulla. Esatto. E poi cos'è capitato invece attraverso il centro? Attraverso il centro io ho trovato per la prima volta intanto chi si occupava proprio specificatamente di questa malattia. Quindi già solo il fatto di andare a parlare con una persona e non capire, che già sapeva cos'era la mia sindrome. Se vai dal dottore gli dici sono raffreddato e dici no, non può essere. E lì ho capito, ho detto finalmente sono da un medico. E lì ho cominciato finalmente a capire quali potevano essere le cure per migliorarmi la vita, che considera questa cosa, per esempio in estate, io abito al sud. Dove abiti tu? In Sicilia. Ah, che bello. Esatto, quindi spiaggia, mare, sole, caldo. E puoi fare i bagni, andare al mare, eccetera, o no? Fare i bagni sì, tranquillamente. Il sole però, le temperature alte danno fastidio, perché la temperatura della gamba è molto più alta. Certo. Quindi il sole comunque è una cosa che può creare macchie, Meglio di no. Copertura totale all'ombra, la gamba, quindi non vivo il mare nel modo congeniato, però si va avanti, cioè alla fine il mare è bellissimo. Camminare è una cosa che hai imparato a fare con tranquillità o no? Sì, camminare sì, correre pure, giocavo anche a calcio, poi nel tempo questa malattia è andata a creare perché cresce fino ai 27-28, finché non si stabilizza, va sempre ad aumentare, quindi da piccolo nasci che non hai niente, mano a mano vai a peggiorare. Certo. Ecco, ma come si vince la paura di una malattia ignota, così sconosciuta? Io penso che l'unica cosa che possiamo fare è non accettare che abbiamo un problema e non una montagna davanti. Sì. L'importante è vivere la vita, finché puoi vivere la vita nel modo più normale possibile, o comunque che ti renda felice. Qualunque malattia, qualunque sindrome, è una malattia importante, ma non è una malattia che può essere come chi può avere un cancro, chi può avere malattie molto più gravi. Quindi, se io ho problemi ad accettare una malattia. Cioè, il problema della tua malattia era soprattutto che non si sapeva che malattia era. Eric mi dice: ero abbandonato a me stesso. Certo. E grazie a loro, a questo numero verde, veramente. Sì. Mi hanno indirizzato, ho avuto l'esenzione, ora stiamo andando avanti a vedere anche con chi i nuovi centri di ricerca che stanno facendo. Una chiamata e tu già sai dove devi andare. Che non ti senti solo. E oggi qual è il tuo sogno nella vita? Il sogno vero che potrei avere riguardante la gamba è che magari in questi anni si sono fatti passi da gigante e io vado lì e tutto guarisce. Certo. E nella vita? E nella tua vita? Vorrei diventare retail manager per un'azienda di abbigliamento. Quindi studi economia? Studio economia, studio economia, sto finendo quest'anno. Bene, so che oggi è un esame, e allora ti faccio tanti auguri, tanto bocca al lupo. Crepi il lupo. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. L'SMS abbiamo Franco da Siracusa. Buongiorno Franco. Dica. Io la seguo da moltissimi anni, quindi grazie. Stamattina la ringrazio per aver posto l'attenzione su un problema che sono le malattie rare. Dica lei che cosa fa? Io praticamente sono il presidente di un'associazione appunto di queste che si chiama SOS Linfedema Onlus, e che riguarda i malati di linfedema, che sono tantissimi in Italia, sono inquadrati tra le malattie rare, e stiamo cercando da 7 anni attenzione con il Ministero, da 7 anni che le linee guida sono pronte per essere, come dire, pubblicizzate e rese pubbliche. Ancora oggi la nostra patologia in Italia, mentre nelle altre nazioni è regolarmente riconosciuta come cronica, invalidante e increviscente, ancora no. Speriamo di poter fare qualcosa anche con la nostra trasmissione. Ricordo il numero verde, grazie della testimonianza, il numero verde per il team specializzato nelle malattie rare, 800 89 69 49. Ecco, dottoressa Domenica Taruscio, lei è direttore del Centro Nazionale delle Malattie Rare. Abbiamo sentito la testimonianza, abbiamo sentito prima la storia di V, e che ha passato 9 anni prima di trovare un ospedale disponibile a prenderlo in carico, cioè a riconoscere la sua malattia e a curarlo. Ma com'è possibile? Ma questo è possibile perché spesso i cittadini propriamente non sono, e anche i medici di famiglia, i medici curanti, non sono propriamente informati su quello che esiste sul territorio nazionale, sia regionale che nazionale. Intanto, da una parte è difficile identificare segni e sintomi e capire bene qual è la patologia di cui può soffrire un cittadino. Ma lui era stato in tanti ospedali, sì, ce in l'ha tanti raccontato. Ospedali, sì. Tuttavia esiste ormai da tanti anni la rete nazionale delle malattie rare con centri ospedalieri dedicati a patologie specifiche, non tutti ne sono a conoscenza, quindi bisogna... Va bene, quindi facciamo informazione per quello. Bisogna fare informazione, ma nello stesso tempo assolutamente fare anche disseminazione di queste informazioni capillari, perché spesso sono non soltanto siamo qui apposta, sì. Senta, ma qual è il percorso che oggi deve fare un malato come lui, come vi, per avere l'esenzione dai ticket sanitari? Intanto cominciamo di lì. Intanto andare in un centro specializzato dove possono fare questo riconoscimento diagnostico, lì viene assolutamente poi rilasciata la documentazione e il cittadino va nella sua ASL e lì viene rilasciato il documento. Ma c'è un problema di molta burocrazia? Ma sapendola, conoscendo bene l'iter, la burocrazia è abbattuta quasi a zero. Ovviamente il problema è chi non conosce deve fare molti giri, quindi bisogna anche capire bene, diffondere bene che esistono dei centri di informazione, di ascolto e di informazione, che certamente nella nostra sede all'Istituto Superiore di Sanità c'è questo telefono verde, però esistono anche moltissimi altri sportelli ormai negli ospedali principali, nelle regioni. Ma quante sono, dottoressa Taruscio, le malattie rare riconosciute in Italia? In Italia sono circa 500. E quante sono rimaste fuori da questo elenco? Ma l'elenco generale è enorme, perché sono 6.000, 7.000 malattie, non tutte, voglio dire, ben classificate ancora. Il regolamento nazionale italiano ne riconosce circa 400-500, ma dico sempre circa perché sono gruppi di patologie, quindi sono estensibili. Alcuni colleghi infatti estendono queste patologie fino al 2005. Ecco, dottoressa Taruscio, ma cosa comporta il riconoscimento di una malattia rara per i malati? Comporta innanzitutto che hanno un'esenzione dalla partecipazione al costo, dal ticket, dal sospetto diagnostico, quindi fino all'accertamento diagnostico, per molte patologie è molto lungo, farraginoso. Quindi è un'esenzione dal ticket, ma anche è un vantaggio notevole perché possono andare in centri laddove poi siano ben conosciuti questi centri. Naturalmente l'abbiamo detto, esattamente. Ma la prevenzione nel caso delle malattie rare però non è possibile? Sì, possibile? No, è possibile, come? Assolutamente è possibile, non per tutte, ovviamente esiste la possibilità di fare prevenzione primaria per alcune patologie, per esempio alcune malformazioni congenite sono anche incluse come malattie rare. Un esempio per tutti che è molto conosciuto è la prevenzione, l'abbassamento diciamo del rischio del tubo neurale della spina bifida attraverso una vitamina che è l'acido folico. Quindi la donna che programma di avere una gravidanza deve prendere un adeguata quantitativo di questa vitamina di acido folico e avrà un rischio abbattuto del 70%. Accidenti. E senta, questo è enorme, molto. Però poi si può agire anche su altri fattori di rischio, quindi Ma voi oltre a dare informazioni, come ha testimoniato Via, ai pazienti col vostro numero verde, col call center, fate ricerca, dove trovate i fondi per la ricerca? I fondi sono, diciamo, in questo periodo di ristrettezza economica totale, i fondi principalmente provengono da progetti di ricerca europei, internazionali. Dottoressa Taruscio, con il Sole 24 Ore avete collaborato per un'iniziativa di medicina narrativa. Di cosa si tratta? Medicina narrativa, guardi, è un aspetto non molto esplorato ancora in Italia, in realtà negli Stati Cosa Uniti. Vuol dire? Cosa vuol dire medicina narrativa? Narrativa è raccogliere le narrazioni dei pazienti, attraverso le storie dei pazienti, sì, del vissuto dei pazienti, e quindi avere non soltanto la storia di segni e sintomi che si possono percepire oggettivamente, sì, no, di una patologia, ma raccogliere il vissuto del paziente, quindi raccogliere quello che rappresenta un patrimonio per la sanità pubblica anche, ma non soltanto per il singolo paziente, perché ci fa capire i bisogni del vissuto della persona. E su questo si possono anche... Ma aiuta a curare meglio questa medicina narrativa? Per molte malattie, sì, per molte malattie alcuni in racconti... In che casi? In casi specialmente molto difficoltosi, dove c'è una difficoltà diagnostica, il racconto specifico del paziente... che racconta bene quali sono i suoi segni, quali sono le sue difficoltà, o soprattutto le mamme che raccontano quali sono i disturbi del proprio bambino, orientano più facilmente, certo, verso una diagnosi. Certo, ma quanto è importante un approccio psicologico corretto con questo tipo di pazienti? Beh, è molto importante, perché spesso questi sono pazienti che vivono un isolamento profondo, isolati dalla società, isolati anche, non hanno una reale inclusione nella vita lavorativa, scolastica, quindi esiste un problema di isolamento culturale anche, oltre che sociale. Però distinguerei quello che è un supporto psicologico da quello che è il contributo della medicina narrativa, che consiste proprio nel raccogliere racconti di vita vissuta, di esperienze di vita, condividere queste esperienze con altri professionisti, con altri soggetti, con pazienti, famiglie, e da qui estrapolare poi dei significati che possono dare dei contributi alla sanità. Torniamo brevemente all'iniziativa fatta con il Sole 24 Ore. Quello che abbiamo fatto con il Sole 24 Ore è stata proprio, abbiamo pubblicato le linee di indirizzo per utilizzare la medicina narrativa nell'ambito assistenziale delle malattie rare e cronico-degenerative. Ecco, dottoressa Taruscio, sì, domani è la giornata mondiale di sensibilizzazione per le malattie rare. Sì. L'anno scorso, in occasione di questa giornata, il ministro Lorenzin ha dichiarato, leggo testualmente: ritengo che non sia più procrastinabile l'avvio di interventi a favore dei pazienti con malattie rare. Ecco, cosa ha fatto il ministro in questo anno? In questo anno ha approvato il Piano Nazionale Malattie Rare, che è un documento molto importante. Ci siamo dotati quindi di un documento che per 3 anni dà delle indicazioni su come si muoverà l'Italia nella tutela dei pazienti con malattie rare, non solo per l'assistenza, ma anche incentivare la ricerca. Per il prossimo anno cosa vi aspettate dal ministro? E dal ministro ci attendiamo, è stata la realizzazione del piano, per adesso è un documento di intenti, e poi ci attendiamo l'inclusione di ulteriori malattie rare nell'elenco delle malattie rare, e l'inclusione nei LEA di queste patologie, e chiaramente poi ci attendiamo finanziamenti per la ricerca scientifica. Naturale, ovviamente, certo. Perché solo da qui potranno venire nuovi mezzi, nuovi studi per identificare, certo, per identificarne altri. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Informare, chiedo scusa ma sono raffreddato, informare significa anche a raccontare storie, notizie positive di un'Italia che ce la fa. Noi lo facciamo abitualmente, li chiamiamo i nuovi mille, che raccontiamo e che sono i veri agenti del cambiamento. Ecco Sara, chi è oggi il compagno del nostro viaggio in Italia? Dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. C'è un esercito di persone che ogni giorno si impegna per realizzare le proprie aspirazioni e per rendere migliore l'Italia. Sono gli agenti del cambiamento, i nuovi mille. Una di loro è Anna Fiscale, 27 anni, una laurea in economia, appassionata di moda e attenta a quella parte di umanità più fragile e in difficoltà. Anna, quando hai capito che potevi unire queste tre cose? L'ho capito quando per la prima volta abbiamo creato un prodotto bello, con un suo stile, con una sua nuova vita. Ci siamo rese conto che forse era un modello e un progetto che poteva veramente partire. Questo prodotto che cos'è? Pezzi unici di moda, di abbigliamento, fatti a partire da tessuto di rimanenza, tessuto che rimane nelle aziende come fine produzione, preso dai nostri creativi, rivisitato, e vengono creati dei capi di abbigliamento che sono realizzati sartorialmente da donne con un passato di svantaggio. Anna, ma perché la vostra linea di moda è etica? Perché diciamo che ha una doppia valenza, quella etica, e permette a delle donne che hanno avuto passati di violenza, di fragilità, ragazze madri, ragazze ex detenute, di trovare una seconda possibilità di inserimento lavorativo nella creazione di prodotti belli, quindi prodotti che riqualifichino la persona, e dall'altro lato permette di andare a recuperare tutto quel tessuto di ottima qualità che altrimenti andrebbe al macero. Quindi diciamo che diamo una seconda vita, una seconda opportunità al tessuto e alle persone. Senti, ma invece queste donne che arrivano da un passato difficile e doloroso, come fanno a conoscere Quid? Come fanno a venire da voi e chiedere un lavoro? A Verona abbiamo messo in moto una bella rete tra Quid e le realtà di assistenza sociale del territorio. Quindi l'unico requisito è avere una buona manualità. Dopodiché queste signore, queste ragazze vengono messe in contatto con Quid tramite tutta una serie di educatori e assistenti sociali che hanno capito la potenzialità del progetto e lo sostengono. Sì. E quindi voi le formate anche una volta che arrivano da voi? Sì, all'interno del nostro team abbiamo due certe professioniste che affiancano le ragazze nella loro crescita, nel loro sviluppo di competenze anche a livello artigianale. Anna, qual è il prossimo obiettivo di Quid? Quid vuole diventare, e abbiamo già qualche progetto che sta per partire, ma la nostra idea è quella di proporci come braccio etico di aziende di moda per produrre, a partire dalle loro rimanenze di tessuto, dei prodotti fatti da Quid, dalle donne di Quid, distribuiti dall'azienda partner, in modo da abbinare insieme i due marchi, progetto Quid for un ipotetico brand di moda. E per adesso come vi accolgono le grandi case di moda? Con entusiasmo oppure cercano di evitarvi? No dai, adesso per la festa della donna saremo presenti in tutti i negozi di intimo di una grossa catena del veronese con un prodotto che andrà nei loro negozi. Perché avete scelto proprio una molletta come logo della vostra linea di abbigliamento? Perché la molletta è un oggetto semplice ma utile, che tiene insieme diverse realtà, che sono quello della moda, dell'aspetto ambientale e dell'aspetto sociale. Ti sei laureata in economia a Milano, ma ti capita mai di pensarti in una veste diversa, magari in una banca, in uno studio di commercialisti? Adesso è da un po' che non mi capita, però era stato, diciamo, piuttosto divertente, perché la stessa settimana in cui era partito Quid mi avevano proposto di ripartire per Haiti, dove avevo lavorato per 6 mesi, e di entrare in consulenza in una società di Milano. Quindi diciamo lì si era verificata davvero, ti sei trovata un bivio della scelta. Sì, però oggi sono molto contenta della del nostro progetto. Nei momenti di difficoltà mi vengono dei pensieri, ma poi mi rinfranco e ritorno assolutamente della mia idea che Quid crea valore nel nostro territorio, da opportunità di lavoro, in nessun altro modo potrei veramente fare lo stesso. E se volete sapere di più sulla storia della linea di vestiti Quid e dei suoi fondatori, potete digitare italiachecambia.org. Mix 24. Cosa leggerai? Con calibro affascini il tuo cuore. E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore, ma i tuoi piedi, ta, ta, ta, ta, ta. Ma i tuoi piedi, ta, ta, ta, ta, ta. Allora no. È successo oggi che le ragazze fotografate nei cartelloni pubblicitari sono scese dai loro manifesti e sorridendo hanno preso a braccetto i pendolari. Tutto questo perché la giornata di oggi è proprio un imbuto, e questa era una cosa che si era capita già dal mattino, dove la notte si era andata via come un boccone ed era un morso intriso delle fatiche che si devono fare tutte oggi. E queste ragazze, prendendo a braccetto i pendolari, hanno dato un'elettricità speciale, li hanno perfino baciati, ma era un bacio complice, spiritoso, e hanno fabbricato per tutti l'elettricità allegra e spensierata di una giornata a forma di imbuto. Eppure, Giovanni, io credo che su questa canzone qualcosa da dire ce l'abbia Sara. No, niente. Che mi... Devo salutare la mia insegnante di inglese di quando avevo 10 anni, perché era la corista di Paolo Conte proprio in quest'album. Oggi ce l'ho anch'io la voce alla Paolo Conte. Meno. Bolle. Giovanni, ma Bersani che sta a fare? Non lo so. Secondo me, vogliamo sentire cosa vuol fare Bersani un attimo. Un'ultima domanda: che cosa c'è nel suo di futuro? Boh. Non lo sa neanche Pierluigi. Ce l'aveva detto l'anno scorso. Allora, ma cosa sta succedendo? Facciamo un punto. Allora, Bersani non andrà alla riunione dei gruppi di oggi. Gruppi del PD. Okay. Perché? Ma perché pare che non la dovesse convocare Renzi, ma i capigruppo, e quindi l'hanno preso un po' cappello, diciamo. Beh, è pur sempre il segretario del partito. Eh sì, ma pare che questo non sia sufficiente a convocare i gruppi, insomma. E poi perché c'è poco tempo per discutere di grandissimi temi, e dunque Bersani si è ribellato insieme alla minoranza. Insomma, siamo di nuovo al tira e molla. Secondo me questa cosa che non c'è più il patto del Nazareno, non ci sono più i voti di Berlusconi, alla fine è più difficile tutto per... è molto più difficile per il nostro Presidente del Consiglio andare avanti. Allora, i suoi lo frenano, i 5 Stelle, vabbè, non esistono, ogni passaggio parlamentare diventa un rally, ma non è che di questo passo si apre una crisetta di governo, che ne dite? Ma... no, ancora un po' no, presto. Pietrangelo. E se diventano più forti quelli della minoranza PD? Allora lì sono guai. È molto grande. Salamino! Tutti in piedi. Che è successo? Succede che il pluralismo, caro Mario, non è una spartizione delle reti. Certo. Allora, la questione è quella dei telegiornali Rai. Arriva il concorso per i direttori e perciò squillino le trombe. Che settimo cavalleggeri. Questo serve a sottolineare la rivoluzione voluta da Luigi Gubitosi, il direttore generale della Rai, per cui saranno accorpati i TG. Parte la riforma delle news. Giusto. E insomma, c'è una novità: ci si potrà candidare alla guida delle testate giornalistiche. Ah, però. oggi, domani, un concorso, chi si trova con la barba fatta può ritrovarsi a dirigere il telegiornale. Intanto verranno segnalati i posti vacanti e i giornalisti interni e quelli esterni potranno inviare anche loro... gli esterni. Sì, sì, allora... anche gli esterni potranno inviare il loro curriculum. E questa è una maledizione, questa dei curriculum. Però, per esempio, Roberto Saviano, sapete, che fa? Ha già indicato il direttore ideale. Ah, sì. E chi? In Elena Ferrante, e la pure misteriosa direttore. Scrittrice o scrittore, non si sa bene, che si cela, che dice una volta che va a prendere il premio Strega, passa poi da Saxa Rubra e lì dirige anche il TG. La Direzione Nazionale Antimafia ovviamente approva la scelta, anche l'ONU è entusiasta, Hillary Clinton pure applaude a questa decisione di Roberto, Sophia Loren pure, tutti contenti. Anche l'Unione Europea. Però insomma... c'è tutta la questione di segmentare, per esempio Giovanni, dimmi, tu vuoi segmentare? Io segmento. Tu segmenti. Io segmento. E tu Mario, lo presenti il tuo curriculum? Certo. A questo punto ci candidiamo. Mario ce la può fare. Vabbè, allora, intanto Matteo Renzi... Beh, intanto c'è la Gabanelli, te la devi giocare con la Gabanelli. Ma cosa ha mai diretto la Gabanelli? Niente. E allora? Può cominciare. Sì, vabbè. La Gabanelli, non mai la Ferrante, insomma, allora, è successo che Renzi... intanto sta lavorando alla riforma del servizio pubblico dell'informazione radiotelevisiva e vuole avere un colloquio con l'unico che veramente lo può aiutare. Chi? Lei Bettino di Firenze guarda, è sentimentale, te lo ricordi chi lo... è Lei Bettino di Firenze, adesso è Dorian Gray. No. Ecco, vuole fare sta riforma della RAI con Beppe Grillo. Grillo ha detto cose interessanti. Adesso io però vi faccio sentire un rumor di ferraglia, un rumor di pugna. Sapete che cos'è tutto ciò che si accompagna con le note di Richard Wagner, le Valchirie? Questo è il rumore che saluta l'arrivo del curriculum di Mario Secchi alla direzione generale della RAI. Mi viene una battuta terribile da Apocalypse Now con questa musica. Sai, amo l'odore del napalm al mattino. Ci arriva con l'elicottero. Vabbè, adesso forse non ti prendono. No. Bolla. Allora, questa è Rolling in the Deep, bellissima canzone di Adele, straordinaria interprete, senti che voce. E segnalo che dall'altra parte del mondo c'è uno stato che si chiama Venezuela, non piccolo, è diciamo anche detentore delle principali riserve mondiali di petrolio, che è praticamente in rovina. E con il crollo del prezzo del barile ovviamente è precipitato in una crisi paurosa, già si era avviata questa crisi con il vuoto di potere creato dalla morte di Chavez, il problema è che Maduro non è capace di governare e ovviamente lo scenario, il contesto economico sono cambiati, poveraccio. È un paese, guardate, va guardata la storia del Venezuela perché è in profondissima recessione, inflazione al 68%, ci sono dati terrificanti sulla situazione, un paese sostanzialmente rovinato. Pensate che il petrolio nel 2008 era a $145 ed era partito nel 99 da $12, adesso. Oggi è a 55, perdono soldi a nastro. A come nastro, accidenti. Mix 24. Bellissimo questo pezzo, meraviglioso. Sex. Allora, è tornato, torna stasera, per chi lo ama, per chi lo odia, però non possiamo non celebrarlo, non possiamo non dire che in contemporanea con gli Stati Uniti e su Sky stasera torna un mito, Frank Underwood, uno veramente cattivo, insomma... comincia la terza serie di House of Cards. Fantastico. No? Grande, tutto grande film stasera. Beh, una sceneggiatura che è la fine del mondo. Bellissima. Ormai, molto bella. Quindi diciamo che facciamo questa piccola segnalazione sulla fiction di Sky. Per fortuna non ci sente, professor il professore. No, è il professore, il quartetto eccetera, no? Sì, no, no, no, beh certo. Sì, no, come... cos'era Taviani l'altro giorno? Oggi che è morto, cosa, come si chiama? Che è morto? Cantante degli anni 50. No, no, vabbè, non, non mi ricordo il nome. Non ti ricordo. Vabbè, chiediamo a Simone. Vabbè, oggi venerdì, come sempre, è arrivato il momento della nostra posta del cuore. Se volete raccontarci i vostri problemi di cuore, lo sapete, mix24@radio24, Sara Tardelli risponde. Intanto, chi ci scrive oggi? Scrive aggressiva 84 e devo dire che tutte le lettere d'amore o di cuore vengono scritte di notte. Ho scoperto questa cosa. E dice: sembrava l'idillio, la prima uscita perfetta. A cena il tempo passa in gran segreto senza farsene accorgere. Seguo una lunga passeggiata nella notte, riscoprendo gli angoli di una città così familiare e improvvisamente così affascinante, perché vista con gli occhi dell'altro. Poi, lungo un corso vittorio deserto, passa uno scooterone. Bella chiappo, amoro, bella gnoccolona! Avvampo, mi scappa un vaffa tanto astioso quanto sincero. Il mio accompagnatore mi guarda stupito. Guarda che era un complimento. Certo, perché lui è il moro del bellacchiappo e io sono la gnoccolona. Moro, i complimenti sono un'altra cosa, ribatto ironica, già pronta a farmi una risata. Invece su quel moro, detto da me, lui si irrigidisce e poco dopo mi mette su un taxi con un saluto frettoloso. Il giorno seguente racconta all'amica che ci aveva presentati che sono bellissima, la donna perfetta, se non fossi tanto aggressiva, e poi sparisce. Certo, perché l'ironia va bene, ma a senso unico. E se una si difende è subito aggressiva. Ma veramente gli uomini vogliono la gnoccolona pronta a sbattere le ciglia sempre e comunque? Oppure ho solo incontrato un cretino? Pietrangelo. È muto. Oh, io capisco, capisco tutto. Le donne belle, le bellissime, a maggior ragione come viene descritta la nostra ascoltatrice, soffrono, perché la donna bella soffre più di ogni altra. Beh, provate a immaginare, provi signora che ci ha scritto, se invece di bella gnoccolona avesse detto reclam della Brill, che so, dove l'hai trovata questa rovinata, questa bruttona, come l'avremmo raccontata? Allora succede che posso dare soltanto un consiglio. Intanto alla sua domanda, ha incontrato un cretino? No, ha incontrato uno che è stato forse lento dei riflessi, perché comunque, anche se complimento esagerato, doveva acchiappare questo e metterlo al posto suo, perché la bellezza appartiene soltanto a chi se la sa conquistare, non a chi scappando con uno scooter dice una cosa per un'altra. Dopodiché, signora o signorina, si ricordi, fatto salvo la fragilità della bellezza e il dolore delle donne belle che soffrono più di tutte, si ricordi che se solo le avesse detto Ladia sarebbe stata una tragedia. Invece io vorrei partire da qui, ascoltate. No, no, no, io amo mio marito, lei non mi ha capito affatto. Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho. Sì, beh, e lei non immagina quanto sia difficile essere un uomo che guarda una donna con l'aspetto che ha lei. Io non sono cattiva, è che mi disegnano così. Al di là, cioè, oltre che riconoscere le varie posizioni, no? Quindi cercare di essere equa e aperta al dialogo e al confronto, vorrei ricordare le misure di Jessica Rabbit. Vai. 140, 20, 140, va in giro su un tacco 12, inguainata in un vestito rosso di paillette, tutto il giorno. E infatti Jessica Rabbit non esiste. No, esiste. E infatti sapete chi ha scritto il suo personaggio? Gary Wolf, un omaccione che come te, caro Moro della nostra aggressiva 84, pensa che le sue fantasie coincidano con i nostri sogni. Io mi oppongo, Ma certamente. No, ma bellissimo. No, ma Jessica Rabbit esiste, cioè, non scherziamo. Ma volete rovinare i miei sogni? Ah, la conosci, sei uno dei fortunatissimi. Absolutely, yes. Oggi vi raccontiamo la storia di un omicidio che è avvolto da un mistero. Quello di Olof Palme, lo raccontiamo perché domani è l'anniversario. Il primo ministro svedese, dicevo, leader dei socialisti, che la sera del 28 febbraio 1986 viene ucciso da due colpi di pistola all'uscita del cinema dove si era recato con la moglie. E ascoltiamo intanto il giornalista Lars Borgnes, che ha indagato su questo caso. Quello che successe, se analizziamo le testimonianze di quella notte, è che scopriamo nel killer un uomo non con esitazioni, come potrebbe essere uno psicopatico, ma troviamo un uomo molto distinto, che spara un colpo che immediatamente ammazza Olof Palme, e poi ne spara un altro, che solo ferisce Lisbeth Palme. E poi, molto distintamente, si gira, mette la pistola in tasca, inizia a camminare e poi, più lontano, inizia a correre, senza panico. Ecco, subito dopo il giornale radio, come ho detto, la storia di Olof Palme di Antonello Padovano, a cura di Marina Milone, che ha intervistato Ennio Remondino sul tema. Ricordo che capita di replicare delle storie perché col passare dei mesi gli anniversari si ripetono e noi cerchiamo di essere presenti con le nostre repliche. E per onorare le situazioni che si verificano, diciamo così, e quindi gli anniversari ci interessano. La canzone di oggi è Ragazzo Triste di Patty Pravo.